Perché? Questa è la domanda che più spesso mi pongono. Pourquoi? Perché? A che scopo? Perché tu cammini sul filo? Perché tu sfidi il destino? Per me, camminare sul filo è la vita. Sì, la vita. Funamboli, cronache di un paese in equilibrio. Di Alessandro Milan, con Veronica Gentili e Leonardo Manera. Alessandro Milan, mi sembri un DJ degli anni 70 degli autoscontri quando parli la mattina. 여기 대한민국에서 모두가 이 Funamboli 방송을 듣고 있습니다. Dalla Corea. Ma quanto bella è Veronica Gentili. Però il top sarebbe se scrivesse sul libro o sul giornale. Buongiorno cari amici, cari funamboli, funamboli voi come funamboli noi alle 9:09 minuti. Eccoci qua, siamo negli studi di Milano di Radio 24. Dove signore, l'ha fatto Veronica! L'ho fatto! È venuta a vederci a teatro a Platone ieri, me e Leonardo Manera, e poi è qui. Ragazzi, sono andata ad accertarmi di quello che vi avevo promesso, ovvero che si sarebbero spogliati nudi. Ebbene, è successo. E devo dire che c'è stata proprio un'acclamazione, cioè sono stati quasi incoronati presidenti del Consiglio entrambi per acclamazione popolare collettiva. Smettila, una roba... smettila. No, è stata una grande performance, anzi vi dico da adesso in poi ogni volta che ci sarà la lotteria, perché in realtà è una lotteria, sì, dei biglietti per Platone, perché i titoli che scrivete, sì, non pensate realmente che loro selezionino con un criterio. Ma come no? Bene, così a casaccio, secondo i gusti veramente opinabili dei signori, però devo dire che lo spettacolo è veramente, veramente grazie, divertente. Grazie, grazie. Non ci si può credere, poi detto da me, che sapete, poi, non è che li abbia proprio in considerazione entrambe. È incredibile, però... poi il fatto di avere avuto Veronica Gentili ieri a vedere Platone vuol dire che ce la teniamo sul groppone qui negli studi di Milano. Dovevi pensarci prima, ogni cosa ha un effetto collaterale. Non è che c'è un Frecciarossa che parte a mezzanotte. Mi volevi spedire direttamente indietro? No, invece sto qui. Può anche darsi che resto pure oggi se mi gira storto, sto qua anche domani. Allora, tra l'altro, ieri in treno mi dicevi che venendo qui a Milano hai studiato, hai approfondito. Guarda, ieri ho molto letto, perché sai, io sono una appassionata della poetessa polacca Wisława Szymborska, sì, e certo, dunque ho pensato di estendere un pochino il mio panorama letterario in questo senso, e di leggere un altro poeta polacco che si chiama Piotr Zieliński, che è un altro poeta polacco, devo dire, fine, che è stato... regolare, va col sinistro! Ha raddoppiato il Napoli! Il primo pallone toccato praticamente! Capisco perché ogni volta che parlo di queste mie letture ci sono queste interferenze di esultazioni collettive. È fastidiosa questa cosa. E devo dire che questo Zieliński è stato insignito del titolo di miglior poeta polacco. Temo che quest'anno leggerai molto e approfondirai molta letteratura. Devo dire che hai ragione, da quando conosco straniera, te leggo moltissimi poeti stranieri. Devo dire che ho avuto un incremento, perché sono sempre stata un amante, no, ma ultimamente... Ti ringrazio, siamo molto felici Piotr di questa tua... Piotr Zieliński, che sì, ha scritto a quattro mani con Wisława Szymborska, sì, il... Ma col sinistro! Abbiamo finito questo siparietto da cialtroni? Toccato praticamente Zieliński. Va bene, alle 9:12 minuti. Il gol dell'esistenza. Siamo molto contenti di tutto ciò, ma abbiamo tanti temi da affrontare, tanti funamboli che si succederanno qui fino alle 11, come di consueto. Veronica era rimasta minaccia, colpita da un annuncio di Berlusconi. Ve lo doveva dire, è arrivato qui e ha detto: ma Veronica, sono 20 anni che Berlusconi dice questa cosa. Veronica è arrivata: no, c'è Berlusconi che ha detto questa cosa, diccela. Ecco, però intanto 20 anni fa, come tu sai, no? Eri nata da poco, ecco, va bene, quindi dici non me ne che cosa occupare. Ha detto Berlusconi. Ma poi una novità, attenzione, scoop, attenzione. Vuole fare il ministero della terza età. Sì, ma non è tanto questo. Ma no, poi vuole dare? Le dentiere? Le dentiere e 1.000 euro di minima agli anziani. No, è vero, no, che non l'avete mai sentito, il nostro dibattito è stato attorno alle dentiere. Voglio dire, però Berlusconi in realtà è un sottile lettore dei tempi. Perché certo, mano a mano che tutti invecchiano, gerontocrazia, lui ha capito proprio che va istituzionalizzato il Ministero della Terza Età. E va io bene, che comunque sono anche preoccupata per te, per Manera, mi rendo conto, sì, che ci sono delle difficoltà. L'idea che ci sia qualcuno che davvero si prenda a carico voi, sì, che ormai ci siamo, un pochino mi rassicura. Ma non ho capito, ma il Ministero della Terza Età, il ministro o la ministra deve essere vecchia anche? Beh, oppure può essere anche di mezza età, ma si occupa di trovo anziani. Che sarebbe di cattivissimo gusto mettere un giovincello come ministro della terza età. Quindi vabbè, io immagino che Berlusconi abbia in mente per sé, qualora riuscisse a fare il presidente del consiglio, di tenerne gli interim. Questo è per dire che ci si prospetta una campagna elettorale con tante novità, tante cose nuove, le dentiere e più aiuti agli anziani, detto da Berlusconi. La realtà è che abbiamo finito di far finta di fare il paese per giovani. Bisogna fare un bel paese per vecchi, ben fatto. E Berlusconi, che è l'unico che capisce come vanno i tempi, ha capito che bisogna farlo e dichiararlo, smettendola di dire la disoccupazione giovanile. Allora, se volete chiamarci, dai, 800 24 00 24, dobbiamo andare alla prima funambola del giorno. Dovremmo andare in un sacco di posti. No, ma in realtà vogliamo iniziare con la prima storia che ci viene raccontata dal profondo sud Italia. Da chi? Allora, la prima funambola di oggi si chiama Fiorita Patera, è con noi. Buongiorno signora e grazie di aver accettato il nostro invito. Buongiorno. Vive in provincia di Crotone. Esatto. Vogliamo dire dove? Anche a Crucoli, è un paese. Sì, esatto. Piccolo, paesino. Grande. Paesino. Piccolino, piccolino. Un paesino piccolino. Allora, la sua storia in realtà è una storia di qualche anno fa, che però ha deciso anche di riraccontare, perché ripropone un problema che in alcune zone d'Italia spesso emerge. Lei 4 anni fa è rimasta incinta e ha deciso di abortire. Come è andata quella... Non che ci sia necessità di specificarlo, però lei ebbe bisogno di abortire per delle ragioni mediche, mi corregga se sbaglio, signora. Sì, sì. Niente, praticamente c'era un problema che sussisteva già dal primo mese di gravidanza. La ginecologa se ne è accorta subito, però noi ci siamo andati un po' con cautela, anche la stessa ginecologa ha detto andiamoci piano, vediamo più avanti come procede la gravidanza per eventuali, come dire... Sì. Sì, chiaro, se ci fossero sviluppi di qualunque genere. Ecco, no, no, ma prego. Immagini. Non è facile parlare di questo. Praticamente niente, siamo arrivati al terzo mese e già il mio bambino, perché anche se fino al secondo mese si chiama feto, non si chiama bambino, specifichiamolo, Certo. E il mio bambino praticamente aveva questa malformazione cardiaca che gli impediva di avere dei polmoni regolari come un feto normale. Crescevano, insomma, era una patologia abbastanza grave e mi toccava affrontare una situazione che mi faceva tralasciare la mia famiglia e l'altra bambina che avevo. Certo. Allorché siamo andati avanti, la ginecologa sempre molto disposta ad ascoltarci, ha fatto vedere l'ecografia fino in Belgio. Niente, questa malformazione purtroppo c'era. Nostro malgrado abbiamo dovuto prendere la decisione di abortire, certo, tutti insieme, perché non si tratta solo della donna, si tratta chiaro, anche del nucleo familiare. È lì che sono iniziate delle vere e proprie vicissitudini. Ce le certo, può riassumere? Intanto è stato facile trovare un medico? No, assolutamente no, perché erano tutti obiettori di coscienza. Dovevo andare o in Puglia o al nord, non lo so, e non era proprio il caso affrontare un viaggio. Certo. Ci siamo rivolti a Cosenza praticamente e lì c'era un solo medico che non era obiettore, ha iniziato la prassi da seguire e praticamente se n'è andato, ma ha lasciato là, se n'è andato e sono subentrati gli altri dottori che erano tutti obiettori di coscienza. Sono stata trattata male perché alla fine non hanno avuto né tatto né umanità, quello che dovrebbe avere di prima di tutto un medico e tutti quanti del reparto. Ma male da che punto di vista? Nel senso, veniva biasimata per la scelta di abortire? Sì, sì, sì, la... Sì, era praticamente un calvario lì, venivi trattata male, c'era un'altra ragazza con me, è stato un calvario anche per lei perché aveva il primo figlio, era per lei, non sapeva niente, nessuno ci considerava. Cioè la biasimavano per la scelta di abortire. Praticamente venivamo trattate come quelle che commettevano un omicidio. Un reato, certo. Ma delle pressioni implicite per dire in realtà se lo dovrebbe tenere, per cui è inutile che sta qui a dire che vuole abortire. Mm-mm. Praticamente il medico mi ha fatto capire e ha detto chiaramente: io non faccio il lavoro sporco degli altri. Cioè, ma quale lavoro sporco? Io dovrei affrontare... Io e mio figlio, la mia famiglia, dovremmo affrontare una cosa del genere, perché per cosa poi? Cioè, la società in cui viviamo non offre servizi, non offre assistenza. Certo. Probabilmente non sarebbe arrivato nemmeno a 9 mesi di gravidanza. E cosa ci aspettavamo? Cioè, io psicologicamente non ce l'avrei fatta. Ma certo che no, è chiaro che sono situazioni... Mia figlia avrebbe sofferto, lui idem, perché un bambino deve vivere, sorridere, giocare come tutti gli altri. Magari l'indomani si sarebbe trovato anche vittima di bullismo. Non saprei. Ma i medici obiettori conoscevano tutte le difficoltà che lei aveva, la situazione in cui si trovava? Sì, prima la conoscevano benissimo, però... Eppure niente? Niente, ho dovuto fare praticamente, tra parentesi, la pazza, e prenderlo dal cravattino e dire che la legge 194, nonostante loro erano obiettori di coscienza, mi tutelava, perché è questo che fa: anche se tu sei un obiettore di coscienza e ti trovi in ospedale, non puoi assolutamente farmi mancare l'assistenza. Ma lei alla fine ha potuto abortire nell'ospedale o ha dovuto spostarsi? Sì, alla no, fine sì, ce l'ho fatta, ma con tante difficoltà. Solo nel reparto giù dell'ostetricia, praticamente nella sala parto, ho trovato persone che hanno avuto tanta umanità nei miei confronti, sono state bravissime, mi hanno preso nel modo giusto, solo là. Su addirittura mi avevano mandato il prete. In che senso? Scusi, perché il prete? Perché praticamente dicevano che Dio non voleva queste cose. Per redimerla. Sì. Esatto, ma cosa non voleva Dio? Che io abortissi o che portassi avanti una gravidanza che non aveva futuro? Non capivo la situazione, ci hanno mandato dalla psicologa giusto per prassi, nemmeno per un colloquio per darci conforto, niente, cioè, è stato un calvario. Ma e lei, signora, ritiene che oggi la situazione sia più o meno la stessa? Cioè, adesso che sono passati diversi anni e purtroppo sappiamo che la situazione a Crotone, da una serie di vicende appunto che abbiamo letto sui giornali, è abbastanza simile. Lei che si trova lì e che ha vissuto questa esperienza, crede che sia cambiato qualcosa o che... Assolutamente no, non è cambiato niente. Dal mio punto di vista e da quello che vedo sui giornali e su alcune esperienze che raccontano qua, perché non sono la sola che magari si trova... capita che ti trovi a parlare con una persona e dici: sai, ho avuto anche un'esperienza del genere, a Crotone non è possibile fare l'aborto. Ma è possibile spostandosi, o è possibile con questa vicissitudine, con questo che lei ha definito anche un calvario? La cosa che più mi ha colpito è proprio la presenza del prete, voglio dire, è l'idea che lei sia stata trattata come una peccatrice, come una donna che aveva sbagliato e doveva essere ricondotta su qualche giusta strada, che non ho capito quale potesse essere. Insomma, l'idea tra l'altro che lei non potesse usufruire di una legge dello Stato italiano, la 194, che garantisce la presenza di obiettori di coscienza, questo va detto, ma dall'altra parte garantisce anche la possibilità a una donna di poter ricorrere all'interruzione di gravidanza. Tutto qui. Oltretutto, i dati comunque confermano che a Crotone nel 2016 non c'è stato nessun aborto e anche nel 2017, dall'inizio dell'anno, la situazione è la stessa. Quindi effettivamente che ci sia evidentemente un qualche tipo di ostracismo a realizzare questi interventi è un dato di fatto, insomma. Sì. Questo sì, ma è davvero sconvolgente. Devo dire, signora, non è la prima volta, io ricordo che una volta ci occupammo anche del Molise, dove, se non sbaglio, anche in quella regione c'è un unico medico che intervistammo che garantisce la possibilità di usufruire della legge 194 interruzione di gravidanza. Mi ha colpito, però la ringraziamo perché insomma anche raccontare questa esperienza, sentiamo dalla sua voce, è un'esperienza che evidentemente, pur essendo passati qualche anno, segna parecchio. L'ha segnata. Noi la ringraziamo molto per essere stata con noi, Fiorita. Grazie Patera. A voi di avermi ascoltato, spero che le altre donne che si trovano in queste situazioni possano risolvere la questione nel giusto modo, che siano assistite e tutelate. Io credo che la sua testimonianza possa essere d'aiuto. Anche serve per... anche a questo. Esatto. Sì, davvero. Grazie davvero. 800 24 00 24. C'è da dire che insomma una testimonianza, sono le testimonianze vive poi del paese che non viene molto raccontato sui giornali. Perché poi sono anche delle questioni che accadono a livello locale, quindi ci sono alcuni punti in cui questo succede a livello parossistico estremo. Tra l'altro ce ne siamo occupati, Alessandro, anche perché c'è stata poi una parte politica della questione, perché pare che Forza Nuova abbia appeso uno striscione, certo, sull'ospedale di Crotone, qui rivendicando la loro essere fieri dei medici di Crotone perché si obietta e quindi no alla legge 194. Si politicizza anche quello? Quindi siamo anche riusciti a politicizzare anche l'aborto? Persino il fatto che sia impossibile. E poi la cosa che colpisce è che questa non è certo una donna che ha subito questo intervento con leggerezza, nel sentirla parlare ancora adesso a distanza di 5 anni, il tipo di sofferenza che ha portato dovrebbe indurre a una riflessione. Eccolo qua, però arrivano, è vergogna uccidere i bambini, omicidio volontario, assassini di bambini, arrivano messaggi anche di questo tipo, di chi veramente non ha capito nulla del contesto. No, ma forse non ha neanche ascoltato, esatto, la testimonianza di questa signora e anche quanto le sia costato in un contesto sociale come quello una scelta di questo tipo che sembrava in buona parte obbligata. Comunque noi siamo aperti a tutti e tutti possono scriverci anche al 349-238-6666, vogliamo però cambiare tema, raccontare un'altra storia di una donna, di un uomo, di una famiglia che ci racconterà qualcosa che io veramente non conoscevo e che ascoltiamo. Poi ci scrivono anche due parole su Ostia, no? Dopo la pubblicità diremo due parole su Ostia. Ma c'è, ve ne c'è diciamo anche quattro, anche sei, ve ne dico. Io non vedo l'ora. Mandate tutti i messaggi che volete, tutti argomenti di politica a tamburo battente con io che vi faccio un editoriale di 3 ore ed eccomi. Per esempio, ecco, lo aspettiamo e lo attendiamo con grande ansia, un editoriale di 3 ore di Veronica Gentili. La durata del Frecciarossa, mentre torno verso Roma me lo faccio da sola. Soprattutto, non lo so, diteci che cosa ne pensa di critico MDP, direbbe Leonardo Manera. Va bene, ecco, dai. Su MDP avrei da parlare almeno 3 ore e mezza. Tre ore e mezza. Perché ci sono tante sfumature. Ieri c'è stata l'intervista di Bersani dall'Annunziata, dalla quale, dopo i tentativi di Fassino di ricongiungere mediante Prodi, che vorrebbe fare il Vinavil, però ci si rende conto che ci sono delle difficoltà rispetto alla linea renziana, perché Renzi andrebbe scaricato. Se volete, io continuo. Stupendo. Ora parliamo del paese reale e vogliamo salutare Francesca, non ho detto niente, parliamo del paese reale. No, mi rassegno. Perché... Salutiamo Francesca Fedeli, buongiorno, alla prossima funambola, grazie di essere qui con noi Francesca. Buongiorno a tutti. Allora, Francesca Fedeli ci deve raccontare di una associazione che in realtà nasce da una situazione brutta, da un dramma, un qualcosa di inaspettato, perché Francesca Fedeli col marito, quando Francesca rimane incinta, poco prima che partorisca, il figlio Mario ha un ictus prenatale, che è un qualcosa che io neanche sapevo esistesse, Francesca. No, neanche io. Sì, la nostra storia inizia con la nascita di Mario nel 2011 e a 10 giorni dalla nascita riceviamo appunto questa diagnosi, una diagnosi di ictus. Si finisce perinatale perché anche i medici fanno fatica a identificare il momento preciso, quindi non si sa se sia avvenuto nell'ultimo mese di gravidanza o subito dopo. Ma e che cosa comporta quest'ictus, Francesca? Cioè, che cosa accade al bimbo? Il tipo di evento di lesione è simile a quella che avviene negli adulti, quindi il sangue smette di fluire a causa di un'ischemia o di un'emorragia. I fattori di rischio sono diversi rispetto a quelli dell'adulto, quindi mentre i fattori di rischio dell'adulto possono essere modificabili, abbiamo visto negli anni passati tante campagne di prevenzione che in realtà hanno fatto la differenza, sul bambino sono multipli e non modificabili. E comunque, come dato di fatto, una lesione sistema nervoso centrale comporta dei problemi soprattutto di tipo motorio, quindi nel caso di Mario ad esempio un'emiplegia, quindi la difficoltà a muovere un lato del corpo. No, è chiaro che questo comporta una situazione all'inizio molto complicata da gestire. So che il marito di Francesca addirittura matura anche una rabbia consapevole verso quello che è successo. È vero che si è tatuato anche fuck the stroke, che voglio dire, fuck, lo sappiamo tutti cosa significa, non dobbiamo the stroke che ci mancava. No, fuck the stroke se l'è tatuato sulla pelle. Sì, cioè sì, questa... che poi c'è anche la versione più politica e corretta, che appunto che è Fight the Stroke, che esatto. È il nome dell'impresa sociale. Esatto, è straordinario, perché da questo Fuck the Stroke, questa imprecazione, è diventato invece negli anni Fight, cioè combatti, Fight the Stroke, che è diventata la vostra anche una parte della vostra ragione di vita, no? Sì, sì, sì, assolutamente. Rimane un po' questa rabbia, però produttiva, diciamo. Anche il libro che abbiamo scritto si chiama proprio Lotta e Sorridi, cioè questa volontà da una parte di recuperare le energie per combattere la situazione di fatto, ma con qualcosa di produttivo, per cui diciamo che non siamo l'associazione che recupera soldi per il pulmino o vende le piantine in piazza, ma cerca di utilizzare le risorse in un meccanismo di impresa sociale sostenibile in cui portiamo avanti dei progetti di ricerca, dei progetti utili ai pazienti e alle loro famiglie. Sono andati a parlare, è vero che siete andati a parlare nel cosiddetto TED, sapete, sono questi luoghi dove ci si scambia, magari se ha tempo, quanto? 10 minuti, un quarto 18 d'ora? 18 al massimo. 18 minuti. Ah. E c'era con voi anche Bono? Francesca sa che Alessandro è un fan patologico di Bono e spera di reincarnarsi in Bono. Ha iniziato a credere nella reincarnazione in virtù di questo. Quindi l'invidia in quella è tanta. Non c'era in quella Global. Però ha accolto personaggi del genere. Ma il grande vantaggio di queste conferenze è che poi riescono davvero in 18 minuti a condensare dei temi molto grandi, molto importanti, e a renderli, a divulgarli ai più. Sì, tra l'altro giovedì scorso qui proprio al Sole 24 Ore avete anche vinto il Giuliana Bertin Communication Award Gamma Donna, nel senso è un'associazione che sta anche ottenendo dei riscontri. E che cosa fate in concreto? Cioè vi mettete in rete anche per capire se ci sono persone come voi che devono affrontare la stessa situazione e magari non sanno dove sbattere la testa? Sì. Allora, di base siamo un'impresa sociale, per cui di nuovo non ci sosteniamo solo con donazioni, ma cerchiamo di mettere in piedi meccanismi che ci facciano stare sul mercato, quindi risolvere un problema sociale, però risolverlo attraverso un modello economico. Quello che facciamo è, al di là di fare attività normali di advocacy, quindi cercare di aiutare le famiglie, non so, abbiamo aggregato in Italia circa 700 genitori che vivono come noi lo stesso problema, e quindi cerchiamo di utilizzare delle leve tipiche dei gruppi di mutuo aiuto per aiutarli a trovare soluzioni. E poi abbiamo fatto un paio di cose che sono essenzialmente pratiche, quindi abbiamo sviluppato insieme al CNR una piattaforma di riabilitazione che permette ai bambini di recuperare le abilità motorie in un ambiente domestico, quindi in casa, attraverso l'attivazione del meccanismo dei neuroni specchio. Questi bambini riescono a recuperare parte delle abilità motorie. E questo io volevo chiederle, Francesca, ma quant'è tendenzialmente la possibilità di recupero che c'è? A volte ci sono dei recuperi totali, cioè... Ci spieghi meglio, perché è un caso abbastanza di cui sappiamo tutti abbastanza poco, a meno che non ci siano delle implicazioni di conoscenza personale. Sì, sì, assolutamente. Si parte da un assunto che è ormai una competenza acquisita circa 20 anni fa, del fatto che il cervello mantiene una sua plasticità nel corso della vita. Questa neuroplasticità è più alta in alcune fasi della vita, quindi nei bambini da 0 a 2 anni abbiamo il nostro picco massimo di plasticità, mm-hmm. E se noi interveniamo in maniera così precoce riusciamo davvero a recuperare parte delle abilità perse. Quindi sicuramente non recupereremo la motricità fine, quindi quella che ci permette, non so, di suonare le corde di un violino, però perlomeno continuare ad utilizzare entrambe le mani per le attività di tutti i giorni. Beh, insomma, quindi si può fare molto. Vogliamo dare in conclusione, Francesca, il vostro sito. Allora, qua bisogna sapere un pochino l'inglese. Comunque, fightthestroke.org, è giusto? Cioè, combatti l'ictus o l'infarto. Org. Se non sapete bene come si scrive, come solito c'è la nostra mail, scrivete a noi. Non vuoi funamboli. Che faccio uno spelling meraviglioso? No, no, no. Funamboli, @radio24.it ed è Fight quello. Fight the stroke. Esatto. Tutto attaccato. È quello il modo migliore per contattarvi, Francesca? Perfetto, sì, assolutamente sì, potete cercare i nostri nominativi, Francesca Fedeli e Roberto D'Angelo come fondatori. Ma sicuramente su Fight the Stroke, su tutti i social media siamo presenti e rispondiamo in maniera puntuale. Allora, grazie davvero a Francesca Fedeli. Poi vi ricordo funamboli@radio24.it, la nostra mail, se volete appoggiarvi, e noi vi diremo, magari per chi non sa perfettamente l'inglese, come raggiungerli. Senti, oh, guarda che è arrivato qua un altro funambolo, reduce dal Manzoni. Eccolo, ma io pensavo che le star teatrali dormissero la mattina. No, ma ha fatto anche l'ora tarda, è andata in bar, discutibili, è andato in bar. Leonardo Manera. Avete eccolo cercato qua, anche di compromettere le mie virtù portandomi in dei baracci. Ma io non mi sono lasciata indurre in tentazione e me ne sono andata. Allora, io ieri speravo che Veronica venisse in questo bar per provarci con lei in modo insistente. Come si chiamava il bar? Cin Cin Bar. Capisci, no? Tutti i retaggi, colpo grosso è tornato alla mente con le ragazze Cin Cin. Ho immaginato scene, ho detto preferisco congedarmi, no, allora, l'ora visto è tarda. Ti ha detto il nome, ritiro bar discutibile perché non lo conosco, non vorrei che poi no. I proprietari del Cin Cin è evidente bar che mi, sarà mi un facessero posto. Una casa. Sarà un bar stupendo, bellissimo. Io ho detto bar discutibile non sapendo soltanto neanche. Perché hai tradotto il mio occhio di panico ieri quando ho sentito andiamo al bar Cin Cin. Andiamo in pubblicità invece, rientriamo tra un attimo, state con noi. I funamboli. Siamo qui, siamo in diretta, siamo nelle 9 e 40 minuti in questo istante, anzi tra 15, 14, 13, 12, 11, no, è 10, è la 9, noia. 8, 7, volevo parlarti di quel 6, celebre poeta polacco. 5, vuoi che ricominci 4, da capo? 3, 2, 1. Le 9 e 40 minuti, signori! La noia. C'è Franco che ci chiama da Alessandria. Buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Buongiorno. Buongiorno. A me da un first, riguardo alla prima telefonata, no, della signora che non riusciva ad abortire. A me sì. Dà un fastidio enorme sentire il termine obiettore di coscienza, perché quando c'era la leva obbligatoria, gli obiettori di coscienza passavano degli anni a Gaeto o Peschiera del Garda. È, un termine, è il termine che c'è nella legge, la legge, capito, 194. Ma... Cosa le dà fastidio di questo termine? Il termine è che allora gli obiettori di coscienza stavano degli anni in galera, no? Adesso sembrano quasi dei santi, cose che sono possibili solo sotto lo Stato, punto. Ma non è questione di santità, non sono la cartolina rosa per andare alla facoltà, no, di medicina. Capisco il paragone, però non è né questione di santità né demonizzarli, sono previsti dalla legge 194, cioè è previsto che un medico faccia l'obiettore di coscienza, ma deve essere garantito parimenti il diritto alla donna ad abortire. No, però ha ragione che anche a livello proprio linguistico l'espressione obiettore di coscienza contiene in sé comunque già una connotazione, sì, no? Una connotazione negativa per chi abortisce. Lo so, però vabbè, cambiamo il termine. A me interesserebbe più il fatto che si garantisca che in un ospedale pubblico ci sia l'obiettore di coscienza se lo desidera il medico e a fianco un medico invece che garantisca il diritto di abortire. Certo. Se questo è garantito, voglio dire, è rispettata la legge. No, poi il caso paradossale lì è che diventa 1 a 10 la proporzione per cui stacca il medico non obiettore di coscienza e non ce n'è più per i 4 giorni successivi di medici invece che... C'è Patrizia da Pisa, buongiorno. Buongiorno, io seguo un po' sulla linea dell'intervento precedente per precisare una cosa. Sì, è vero che la legge consente l'obiezione di coscienza. L'errore è che questa possibilità di non fare certe cose doveva essere garantita a chi era in servizio all'entrata in vigore della legge. Successivamente, chi va a lavorare in un ospedale pubblico e sceglie di fare il ginecologo e entra in un ospedale pubblico deve fare tutto quello che l'ospedale pubblico diciamo, può fare. Beh, quindi, però, scusi, no, non lo si può obbligare se la legge no, consente. Mi scusi, legge sull'obiezione di coscienza. Io ho 69 anni, quindi mi ricordo molto bene tutto quello che è successo per far entrare questa opportunità e far cessare quell'obbrobrio che era l'aborto clandestino. Sono ricordi molto, molto precisi. Ripeto, che faccia l'obiezione che l'obiezione di coscienza fosse garantita a quei medici che al momento dell'entrata in vigore della legge erano in servizio e quindi l'aborto era proibito, quindi non avevano mai potuto esprimere alcunché, lo trovo legittimo e giusto. Cioè lei dice non vale più per il futuro. Invece, secondo me non ha senso. Però pazienza. Vede Patrizia, questa è la sua opinione, certo, rispettiamo. La mia opinione, però certo. La legge è chiara. Cioè, ma infatti è la legge che è sbagliata. Ah ecco. No, ci sono. Lei deve fare una battaglia per cambiarla. Non dico che viene interpretata male, la legge viene interpretata correttamente. Secondo lei andrebbe cambiata? Andrebbe modificata, avrebbe detto benissimo, da ora in poi chi lavora negli ospedali pubblici fa tutto quello che l'ospedale pubblico deve garantire. Per esempio, il governatore Zingaretti per il Lazio ha fatto proprio questo, è stato fatto un concorso in cui sono stati assunti dei medici in quanto non obiettori. Sì, perché... ma si rende conto dell'assurdità di una cosa, cioè dover arrivare a fare una selezione pubblica per medici non obiettori, cioè è un paradosso. Sì, assolutamente chiaro quello che dice. È chiaro che se la situazione è poi come quella di Crotone o come quella del Molise... ma guardi che è molto più diffusa di quanto non si pensi. Ma certo, una struttura pubblica deve garantire anche facendo concorsi per medici non obiettori laddove sono tutti obiettori, perché sennò la legge appunto, a quel punto non è garantita. Ma perché queste sono misure tampone, perché la legge talvolta mette in condizione di trovare delle situazioni in cui c'è una sperequazione tra medici obiettori e medici non obiettori. Tra l'altro, visto che ha parlato del prete, mi è venuto in mente una cosa. Ha parlato questa signora di un prete, no? Che a un certo punto le hanno presentato anche un prete. Ma voleva parlare di quel prete, si chiama Don Francesco Pieri, che su Facebook, parlando dell'aborto, di Emma Bonino, le battaglie di Emma Bonino, radicale, eccetera, ne ha uccisi più Emma Bonino o Totò Riina? Sì. Un prete. Ieri c'è stata questa esternazione che ha lasciato basito il mondo intero. Sì. E tra l'altro, di nuovo si è tornati a parlare della questione di cui ci eravamo occupati, no? Ti ricordi il prete? Sì, il parroco bolognese sulla violenza sessuale. Giunti, che aveva parlato appunto dello stupro, dicendo che la ragazza un po' se l'era andata a cercare col suo costume di vita. Quindi abbiamo una soluzione: vietiamo Facebook ai preti. Potrebbe essere una soluzione. Potrebbe essere un'idea, per esempio. Scherzo, oppure ovviamente. Fare un test di idoneità prima di. No? Prima di utilizzare Facebook. Non so se vi rendete conto, il sacerdote che parlando è già il paragone Emma Bonino Totò Riina. No, ma anche pensandoci come ha fatto a partorirlo, cioè la creatività era forte. Sì. Eh? E poi Emma Bonino ne ha uccisi più di Totò Riina. Va bene, no comment. Andiamo alle informazioni sul traffico, perché c'è Leonardo Manera che scalpita. È qua che è tutto fremente, manda messaggi in diretta, chissà chi. Non lo so. Dopo ieri sera, sai la quantità di fan e di gruppi a cui deve rispondere? Ah, mamma mia, quando poi si è sul palcoscenico, poi si è... assatanate erano quando è sceso. Vabbè, quando ero lì fuori, io non sapevo come avvicinarmi. Reggiseni tiratico, cioè è stata una cosa imbarazzante per me, soprattutto che invece ero defilato. Dai, traffico. I funamboli. Caro saluto al grandissimo e bravissimo Alessandro Milan e alla bellissima Veronica Parenzo. Veronica è andata a teatro a vedere Milan e Manera. Ma chi se ne frega! Veronica Parenzo è straordinaria. Sai che molti ti dicono che sei come Parenzo? Non replicherò. No, povero Davide. Non è la prima volta, tra l'altro, che arriva. No, ma cioè, non era rispetto a Davide. Rispetto a Davide, figurati, che non replico alle provocazioni, no? Che mi si sta dando così implicitamente della comunista. Ma perché Parenzo è comunista? No, perché dici così? No, non lo so. Credo così. Che il ruolo di... insomma... Sì, sì, ci siamo quello, capiti, no? Sì, siamo capiti. Ci poi siamo se capiti. Lo sia realmente nella sua casa devo andare a controllare, non lo però... sappiamo, non lo sappiamo. Non te lo so dire. Però adesso è un momento fondamentale. Segnatevi questo orario, 9:49 minuti, perché Leonardo Manera ha deciso di buttare tutto in vacca, come si suol dire. Allora, io la settimana scorsa avevo un piede dolente a causa di una caduta e quindi distratto. La distrazione è metatarso e quindi ho preso per venire qui in radio alcune volte i taxi che ogni tanto mi capita di prendere. Ecco, attenzione, sentate in un quindi, campo minato. Ho scritto questo pezzo oggi che si intitola Come inimicarsi i tassisti. Ottimo. Chiamiamo pronte a chiudere baracche e burattini, vabbè, dai, forza. Perché qualche volta capita di trovarsi in una condizione di difficoltà, capita quando chiami un taxi, il taxi arriva e conosci il tassista. Il tassista secondo me è uno dei personaggi più singolari che si possano incontrare, in realtà ce ne sono di due tipi, quello silenzioso che ascolta la radio, magari Radio 24, e per tutta la durata del viaggio non dice una parola, e questo tipo di tassista è quello che preferisco, salgo, io saluto, dico dove devo andare e lui mi porta. È l'altro tipo di tassista quello che mi terrorizza, il tassista loquace, quello che parla sempre e che soprattutto vuole spiegarti come va il mondo, il tassista che vuole indottrinarti, è arrabbiato con tutti, ha da ridire su tutto, vuole spiegarti come va il mondo. Il tono di voce è sempre infastidito, sbuffa, vede ogni cliente del suo taxi come un cliente da indottrinare, utilizza il taxi come un pulpito per le sue prediche e se tu durante il viaggio gli suggerisci un percorso diverso da quello che ha deciso lui, si offende e ti dice come vuole lei, ma si sente che è offeso. Il tassista loquace e dogmatico ha soluzioni pronte e raffinate per tutti i problemi del mondo. Per Kim Jong-un bisogna buttare giù la bomba atomica. Per gli stati islamici bisogna buttare giù la bomba atomica. Per quelli che in macchina hanno un attimo di esitazione al semaforo bisogna buttare giù la bomba atomica al semaforo. Il tassista loquace dogmatico ce l'ha soprattutto con la politica e i politici. Quelli lì a me non piacciono nessuno. Renzi aveva in mano l'Italia e ha messo tutti i suoi amici solo per proteggere le banche, per metterli la Boschi. Berlusconi aveva in mano l'Italia e ha pensato solo al bunga bunga. E intanto sulle strade è pieno di extracomunitari neri che di colore non si vedono. E poi è colpa mia se di notte col mio taxi li investo. È pieno di gay omosessuali che salgono sul mio taxi, me lo infestano di profumo. È pieno di vegani che vanno ai ristoranti vegani a pagare 2 cipolle 18 euro e poi si lamentano se devo pagare caro il taxi. Te lo meriti vegano, così impari a pagare 18 euro 2 cipolle. Tu prima vai nei ristoranti normali, in trattoria, poi vedi che anch'io ti faccio pagare meno la corsa col taxi. Prodi aveva in mano l'Italia, ha pensato solo a mangiare mortadella. Craxi aveva in mano l'Italia, ha pensato solo a prendere tangenti. E l'inquinamento per strada non lo fanno le macchine, i taxi, lo fanno le scie chimiche. Ladri, ladri, ladri. E intanto il cliente che è dietro risponde solo a monosillabi. Sì, sì, beh, certo, però è vero, ma non ribatti mai, perché in quel momento il tassista è in posizione dominante. Ma c'è un argomento che più di tutti gli altri fa innervosire, fa incazzare il tassista loquace dogmatico: Uber. Se parli di Uber, hai finito di vivere. Con Uber il tassista impazzisce, invece cambia colore più di un semaforo, allunga volontariamente il tragitto per punirti, oppure sceglie le strade dove sa che c'è coda e traffico. E mentre lui inveisce contro Uber, tu cliente ormai appassito osservi, sudando il tassametro. Però in quel momento pagheresti qualsiasi cifra pur di poter scendere e fartela tutta a piedi per liberarti almeno momentaneamente dal tassista loquace dogmatico. Eccoci qua. Amici tassisti, amici di Uber, scrivete a Leonardo Manera le vostre considerazioni. Proprio a lui, eh? Al 349-238-6666, è qui pronto, è qui. Insomma, ne prendi tanti di taxi tu, cioè, praticamente... Allora, per chi è di Milano, dovevo andare, io abito in zona Lambrate, dovevo andare all'aeroporto Forlanini, circa 2 chilometri. Lambrate, tassisti, Lambrate. Dunque, per arrivare a Forlanini mi ha portato prima in viale Montenero. E poi... Ma dai, come in viale Montenero? Adesso chi non sa la geografia di Milano? Allungando circa di 5 chilometri. No. E intanto diceva: i politici sono tutti ladri. Praticamente. Però secondo me era perché aveva più bisogno di tempo per esprimerti le sue idee, non perché volesse fregarti. Scrive un ascoltatore: praticamente i tassisti sono di MDP. Critici. Critici. C'è Mario che ci chiama da Pesaro. Mario, buongiorno. Buongiorno a voi tutti. Eccoci. Mi complimento con il tassista che ha focalizzato con poche parole il profilo dell'Italia. Manera non è tassista. Comunque, Mario, prego. no, lo so, però parlava del tassista, sì, no? Sì, ah, certo, certo, nera, eccetera, certo, eccetera. Certo. Ha focalizzato con poche parole all'Italia il profilo esatto di questo paese che è in caduta libera. Volevo dire una cosa solamente, vi ringrazio per lo spazio che mi avete concesso. Questa mattina su una rete nazionale, la 7, una gentile signora deputata di un partito di PD ha criticato la vittoria dei grillini ad Ostia, asserendo che hanno vinto con i voti di Casa Pound. Domanda, e se avessero vinto di loro? Che cosa vogliono dire? Che in Sicilia ha vinto la destra con i voti di qualcuno? Questo Mario, vabbè, il parere di non so chi sia del mi Partito Democratico. Le mani per ti sfrega, si sfrega le mani. Allora adesso andiamo al giornale. Sono radio. Pronta per il mio editoriale. Perché sul poi... tema. Io sono d'accordo con lei, Mario. Ah, attenzione, attenzione. D'accordissimo. Perché dopo il giornale radio, l'editoriale questo su Ostia è stato di Veronica l'embrione Gentili. No, delle dopo, elezioni dopo. Nazionali. Dopo. Avete dopo. Capito? Dopo. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. I Funamboli. Milan, sei un grande. Veronica, mamma mia, sei pesante. Veronica al massimo è come Corrucciani. C'è chi già l'ha definita la nostra parenza. Parenza. Il signore ti ha risposto Cruciani, quindi un po' a destra, certo. Un po' a sinistra, un colpo al cerchio, una alla botte. La Cruciana. Parto con l'editoriale? È partito anche un Siete Fantastici, vi ho visto ieri sera al Manzoni, grande manera. Non capisco perché. Chi è? Chi questa lo è un'ascoltatrice, non sarà si firma. Sarà una di quelle a cui avete gentilmente regalato il biglietto grazie alla sua fantasia, no? Non lo so. La ringraziamo per essere venuta comunque. Certo, la prossima, tra l'altro la prossima tappa, ti piace tappa? Il 17 dicembre? Dicembre, prima di Natale, insomma. Siamo domenica in atmosfera natalizia. Invitiamo tutti, eh? No, cioè invitiamo tutti, nel senso, se volete dovete però pagare il biglietto. No, non invitate tutti gratuitamente? No, faremo il gioco anche in quel caso, 20 titoli vinceranno i biglietti. Scusami, però attenzione! Ma la gente già si deve sorbettare 2 ore di funamboli e deve pure pagare per venire abbiate pazienza. Vabbè, ma sono liberi, siamo in un paese libero e possono decidere di venire, in tanti vengono. 10-9 minuti, attenzione, è un momento importante. C'è l'editoriale di Veronica non Gentili. Non c'era nemmeno uno stacchetto per riguardo Ostia. La vittoria del Movimento Peter 5 Stelle è distratto. Sentiamo, perché da qui i prossimi destini dell'Italia sono... Vai, 30 secondi, vai Veronica. Dai, su. Allora, mi sembra chiaro ed evidente che questa polemica strumentale fatta ad opera della destra, che dice sì. Che esista un qualche tipo di congiunzione tra i voti degli Spada e la vittoria dei 5 Stelle, quantomeno strumentale, volta alle elezioni nazionali, cercando di delegittimare l'importanza del Movimento 5 Stelle all'interno del paese affinché questo li converta. È inutile che fa degli spiritosi, è veramente che... No. Critico MDP. Vengo osteggiata durante il mio editoriale. No. Ora, sciocchezze a parte, diciamo che questa polemica ha suscitato abbastanza ilarità in me stamattina, perché come giustamente diceva l'ascoltatore di prima, al di là di come poi viene ripresa dal PD, da tutti quelli che devono fare propaganda, che siano proprio quelli della destra, che in qualche modo sono più affini a Casa Pound, a andare a fare la morale a quelli dei 5 Stelle che hanno vinto, dicendo che hanno vinto con i voti degli Spada, fa quantomeno ridere, sorridere, vogliamo dire così? C'è un ascoltatore che ha capito tutto. Veronica, nonostante tu sia grillina, ascolterai il tuo editoriale per secoli con quella voce. Ma vedi che carina. Ma non è grillina. Io sono critica. Critica di MDP. Come io MDP. Io sono proprio endemicamente critica come MDP. Così scrive... non va, Veronica. Questa era per recuperare lo stacchetto che non c'era, esatto. Peter. Merci. Ci scrive anche Giovanna. Ieri sera ero a teatro, non ho visto Milan nudo. Non si è persa nulla, cara Giovanna. Comunque magari Giovanna, il 17 dicembre. Giovanna, ma sarà distratta allora. Vedo. Signori, però è il momento alle 10:11 minuti di introdurre il nostro funambolo del giorno. È venuto in studio, è un personaggio che io ho conosciuto, sono inciampato in lui un paio di anni fa, un anno e mezzo fa, per un'intervista. È un personaggio straordinario. Si tratta di un ragazzo, perché insomma qua la gioventù avanza. Andrea Caschetto, che è venuto a trovarci. Buongiorno Andrea, come stai? Buongiorno, buongiorno a tutti quanti. Si vede che c'è crisi, infatti avete invitato me, un ragazzo straordinario, perché sapete come funziona. Io anzi vorrei rimproverarvi perché avete poco la dizione siciliana. Ecco, dovete fare dei corsi, cioè, per migliorare. Cercheremo di parlare più siciliano. Adesso mi applico un pochino. Okay, cerco di parlare. Vorremmo tutti a questo uomo di parlare. Tanto grazie. Se no mi dicono che sono romana, allora è meglio che cerco di andare sul siciliano direttamente. Allora, Andrea Caschetto, che viene da Modica, Ragusa, ma in realtà è un cittadino del mondo, eh? Adesso ci spiegherà perché. Tra l'altro il suo ultimo libro, Come se io fossi te, edito da Chiare Lettere, ma ne aveva scritto anche un altro, Dove nasce l'arcobaleno, e soprattutto Andrea Caschetto ha avuto un momento di celebrità straordinario quando è andato all'ONU nella giornata mondiale della felicità. Era il 20 marzo dello scorso anno, fece un discorso semplice, un discorso molto efficace, però molto intenso, che finì poi così, con una pazzia. Amici italiani, sono qui al centro delle Nazioni Unite, ok? Cioè, si è messo a correre in mezzo a tutti questi potentoni del mondo, facendosi un selfie col telefonino. Cavallo, sì. Pazzo. Allora, ma perché ero convinto che fossi su Candid Camera, quindi per questo motivo, e secondo me mi hanno fatto la standing ovation perché ho un pessimo inglese, quindi hanno capito altre cose. No, in realtà... non sapremo mai che cosa tu in realtà abbia detto durante il... sì. No, in realtà andate a vederlo su YouTube, lo trovate molto banalmente, mettete Andrea Caschetto all'ONU, è un discorso veramente intenso e molto bello. Ma sapete che ancora non ho capito perché è andato all'ONU. E infatti adesso lo raccontiamo. Andrea Caschetto ha un'età che adesso ci dice... ha avuto purtroppo una diagnosi molto molto dura, tumore al cervello. Che età era? Avevo 15 anni e dopo questa operazione che ho avuto alla testa sono diventato smemorato, quindi dai 15 ai 19 anni ricordo poche cose, e poi ho avuto la fortuna di scoprire che tutte le persone smemorate possono ricordarsi tutto attraverso le emozioni o le cose fuori dal normale. Quindi ho iniziato a vivere attraverso proprio le emozioni o le cose fuori dal normale. Che significa ricordarsi tramite le emozioni? Ti faccio un esempio, tutti... Vai. Gli ascoltatori, tutti quanti si ricorderanno la prima volta che hanno fatto l'amore, quando è nato un figlio, sì, quando è venuto a mancare qualcuno. Ecco, quindi ci sono delle emozioni positive e negative. Io ho deciso di vivere soltanto con le emozioni positive, e quindi se non le ho durante la giornata cerco di realizzarle, di... Per fare un esempio, cioè se Andrea ha questo problema appunto di memoria, nel senso che se pensa, che ne so, che cosa ha mangiato qualche giorno fa, magari non se lo ricorda, cioè la sua memoria non riesce a focalizzare questo. Se però riesce ad associare tutto ciò a un'emozione, a un qualcosa vissuto intensamente, allora ecco che la memoria rimane. Sì, è come con te, che io mi hai detto varie volte, mi hai fatto un'intervista che non mi ricordo. Infatti oggi l'ho non ti ha causato nessuna emozione. Tu non devi preoccuparti perché lui fa tutti questo effetto. Però, quindi non, però invece c'era. Quando ci siamo incontrati per vedere il documentario, il film La Resilienza, fatto da Paolo Ruffini, sì, la storia di Alessandro, un bambino straordinario, ecco, quello me lo ricordo molto bene perché... Vedi. Quel documentario mi ha creato molte emozioni. Quindi ti ricordi, ma... Alessandro in relazione a quel documentario? Sì, sì. Certo, Alessandro di suo è abbastanza anonimo, perché abbastanza uno dovrebbe ricordarsi, almeno abbastanza, che non abbia una memoria. No, la colpa non è solo, siccome mi hanno fatto varie interviste con le varie domande, quindi non posso ricordarmele, non mi ricordo quasi nessuna persona che mi ha intervistato, a parte Bebe Vio, che per me è stato straordinario, per me lei è un esempio, è una ragazzina di 20 anni, ma per me è una sorella, amica. Beh, anche tu come esempio non sei proprio male, però, lo possiamo dire. Grazie, grazie. No, anche insomma, perché dopo il traffico Andrea ci racconterà che da questa operazione, da questo tumore al cervello, quindi una diagnosi molto molto seria, poi ha trasformato la sua vita intanto viaggiando, la dedica continuamente nei suoi viaggi ai bambini, perché ha visitato non so quanti orfanotrofi nel mondo. Sì, tantissimi. Io considero, nel 2015, quando ho fatto il giro del mondo per bluff, non trovi, ho fatto attività con 8.008 bambini. 8.008. Infatti poi sono diventati il mio tatuaggio, perché 8.008 se lo guardiamo dall'alto sono tre infiniti. Infatti non li ho contati più perché i bambini non sono numeri e non vanno contati. Scusatemi se vi ho contato, vabbè, in passato. Però vabbè, è servito, insomma, dire, in maniera evocativa anche 8.008. Per questo tatuaggio. No. Però aspetta, andiamo a sentire le informazioni sul traffico. Sì, anche perché poi ho un milione di domande io. Chiaro, tra poco. I funamboli. Eccoci qui, siamo in diretta con Andrea Caschetto. Allora, abbiamo un milione di domande, caro Andrea. Intanto, perché hai deciso di viaggiare in tutti gli orfanotrofi del mondo? Viaggio nel mondo che ha fatto, tra l'altro, mica in prima classe, eccetera. Con quanti soldi hai fatto il giro del mondo? Con 4.000 euro, e qualcuno anche ne era rimasto, ma non so quanti, però è stato molto particolare. Hai chiesto ospitalità a quelli che incontravi? Sì, un po' un viaggio a scrocco, ma in maniera responsabile e carina, perché l'ospitalità è una cosa che mi hanno dato in tutto il mondo i paesi che noi chiamiamo sottosviluppati, quindi forse sono più sviluppati di noi se danno ospitalità a chi ne ha bisogno. Questa è una cosa interessante che mi disse ai tempi anche il figlio di Tiziano Terzani, Furio se non sbaglio, sì. E lui, anche lui, è partito con uno zaino chiedendo ospitalità nei posti dove andava, e così facendo ha viaggiato in tutto il mondo. Ma scusami, questa cosa mi interessava tanto, cioè tu in qualche modo devi procurarti le emozioni per, come per imprimere i tuoi ricordi, perché le cose restino. Sì. E questa è una cosa che in realtà tu potresti spiegarci a tutti quanti, anche a chi non ha problemi a ricordare ma si ricorda valanghe di cose inutili e invece fa più fatica a trovare le emozioni. Cioè è proprio un percorso quello di cercare le emozioni per scandire la vita. Sì, ecco, un consiglio che do a tutti, perché una frase, non mi ricordo chi me l'ha detta, se una persona storica, un vicino di casa o la nonna, ma qualcuno mi aveva detto: se uno fa una battuta la prima volta tutti ridono, la seconda volta di meno, la terza non ride nessuno. La Manera lo sa molto bene. Ma io già sì, dalla prima. lui per quello cerca di farle che non si rida la prima. Sì, mentre se qualcuno dice una cosa brutta si piange sempre su quello stesso problema, difficoltà. Ecco, quindi dovremmo prendere esempio dalla battuta, oppure dovremmo invertire. Quindi ridere sempre di più alle battute e piangere sempre di meno. In queste parole grandissime sono la sofferenza e cavolate varie. Tra l'altro tu, per esempio, perché ha ricevuto la standing ovation all'ONU? Perché ha detto delle frasi semplici ma molto efficaci e stupende. Una che ricordo, ha detto: quando tu dici sempre non c'è bisogno di avere un tumore per essere felici, per amare la vita, apprezzarla. A te invece è servito? Cioè saresti stata una persona diversa secondo te? No, io penso che ero già anche felice prima del tumore. Infatti per questo motivo ho detto non serve un tumore. Cavolo, ero felice prima, non è che mi era detto il tumore. E tu ricordi comunque com'era la tua vita prima della prima malattia? Prima del 2005 avevo una splendida memoria. Cavolo, eri veramente piccolo però. No, ma sono un po' forse come i nonni con l'Alzheimer. Mi ricordo quando ero bambino che cosa facevo, gli scherzi. Non lo so, quelle cose me le ricordo molto bene. Infatti, ecco, quando parlo del mio passato, soprattutto parlo di quello che è accaduto prima del 2005. Ma adesso, per esempio, nei tuoi ricordi da lì in poi, no? Le cose che ti più significative che metti, se dovessi dire due, tre ricordi da quando c'è stata la malattia ad oggi, le cose che più i viaggi straordinari che ho fatto, gli ultimi tre viaggi potenti, che sono stati il giro del mondo per gli orfanotrofi, il primo documentario realizzato e montato da un non vedente attraverso i suoni e da un mio caro amico che si chiama Michele, che ora è a Boston, e poi anche il giro che ho fatto in Argentina con la sedia a rotelle. Infatti questo è un po' il centro del libro, no? dell'ultimo come se io libro. Fossi te, questo viaggio in Argentina, questa sedia a rotelle. Quindi poco dopo l'operazione? No, questo è stato fatto questo scorso gennaio, febbraio, marzo di questo, siamo 2017, sì, del 2017, ho fatto questo viaggio perché ho il sogno di trasformare la parola disabilità in pluriabilità, quindi non dobbiamo vedere tutte queste cose diverse come tabù, perché avevo vissuto per alcuni mesi sulla sedia a rotelle e una cosa che mi aveva dato fastidio era stato il distacco dei miei amici, era stato il distacco dello sguardo delle persone che incrociavo, appena guardavano, che io li stavo guardando, si giravano dall'altra parte. E poi anche perché c'è una ragazza che nel libro ho chiamato Azzurra, ma ha un altro nome della mia città, che mi piaceva tantissimo, che lei dopo un incidente stradale è finita sulla sedia a rotelle e non ho mai avuto il coraggio di corteggiarla, conquistarla, perché era sulla sedia a rotelle e quindi avevo paura poi di farla soffrire se l'avessi dovuta lasciare. Però mi colpisce sempre una dimensione che tu racconti nei libri, proprio quella del viaggio, cioè voglio dire, sto mettendo insieme le cose, sì, all'ONU, e quindi nel luogo proprio del mondo globale, e poi la tua realizzazione sempre attraverso viaggi, come anche in questo di Come se io fossi te, cioè perché sempre questa dimensione dell'andare, del muoversi nel mondo? Ma io forse perché, come non so se l'ho scritto io nel libro, me l'ha detto qualcuno, ma mi definisco il viaggiatore di culture, di anime, di persone e non di luoghi. Quindi io amo viaggiare per questo motivo, di andare nelle tribù, di andare nelle differenti realtà e apprendere quanto il mondo è straordinario. Io sono proprio innamorato del mondo e quindi forse se non ho una donna non è perché non la posso meritare, ma perché proprio per ora sono innamorato del mondo e non mi va di tradirlo conoscere, con nessuno. Di viaggiare. Sì. E nel frattempo tu come riesci anche a vivere? Allora, di questo? Mi sono mosso ultimamente grazie a sponsorizzazioni che ho fatto, che mi hanno dato, quindi grazie a queste sponsorizzazioni ho fatto questi viaggi, poi sempre, ecco, molto low cost, molto randaggio, quindi per sponsorizzarmi, ecco, se qualcuno mi vuole sponsorizzare basta pochissimo, anche un passaggio con il pollice alzato. No, devi capire Andrea, in questa trasmissione c'è solo una persona che cerca ogni giorno di rimediare qualcosa gratis, è Veronica, ecco, Gentili. Però guarda, per la giornata di oggi, per ora... se becco qualcosa, perché per ora si scarseggia e sto pure a Milano, posso anche fare a metà con Andrea, però va solo bene. Per la giornata di oggi. Va, non, va non bene, ti illudere, perché grazie. Da domani... Vabbè, perché oggi, ecco, la giornata di oggi è la giornata internazionale per la tutela dei minori, per i diritti all'infanzia. Questo ci tenevamo molto, allora, quindi, a dirlo. Sì, ricordiamoci di tutelare i bambini non soltanto il 20 di novembre, ma tutti i giorni dell'anno, perché purtroppo i bambini non hanno la scuola gratuitamente in tutto il mondo, non hanno il diritto allo studio, non hanno il diritto della sanità. Quindi salviamo i bambini di tutto il mondo. E un'altra cosa che voglio dire, se non me lo dimentico, chi di voi ha fra i 18 e i 35 anni di contattare l'ADMO vicino alla vostra zona, perché c'è una bambina che ho conosciuto, al Bambin Gesù di Roma, che si chiama Elisa, che ha una leucemia molto molto molto rara, quindi si può trovare un donatore su 100.000, quindi per favore qualcuno di voi potrebbe salvarle la vita. L'ADMO, ricordiamo, è l'associazione, sì, donatori tra di i 18 donatori. E 35 anni, perché dopo non si può più. Dopo... Beh, io sono ancora in tempo, andrò. Sì, ma comunque, ecco, io vi faccio un esempio. Io, siccome purtroppo ho avuto questa operazione alla testa e ho preso farmaci per anni, neanche io posso donare. Però io posso promuovere, posso divulgare, quindi meglio che con una voce posso invitare a fare, certo, questa donazione a 100.000 persone piuttosto che farla da sola. E fra l'altro ricordiamoci che la donazione del midollo osseo non è la donazione di un osso, ecco, perché ha un nome particolare, è sangue normalissimo, quindi come andare all'Avis e donare del sangue. Quindi se c'è qualcuno di voi che vuole salvare una vita lo può fare. Sì, non è una cosa particolarmente, sì, invasiva. Sì, perché se uno forse ora non può salvare Elisa, ma può salvare altre, certo, persone. Proprio, chiaro, oggi un mio amico di Ragusa fa 3 anni da quando ha avuto la donazione del midollo osseo, sì. Claudio si chiama, gli mando un abbraccio, e lui è vivo da 3 anni grazie a una donazione arrivata da una ragazza, non so da quale parte, di Biella, Padova, Parma, però sono diventati in maniera illegale amici, perché non si dovrebbe sapere nulla. E questa ragazza, certo, perché è andata, donatore non dovresti sapere, è andata a trovarla in Sicilia e si è fatta il tatuaggio con il nome di Claudio. Sono diventati come figlio e figlia, perché lei aveva 25 anni quando ha donato il midollo osseo, un uomo over 40, quindi viva la vita. Ecco, in tutti i tuoi viaggi, anche nell'ultimo libro, Come se io fossi te, qual è il personaggio che ricordi che ti ha lasciato l'emozione più intensa, se ce n'è uno, Ne ho incontrati tantissimi di personaggi. In questo viaggio una personalità che mi ha fatto molta impressione è stato, non mi ricordo, ecco perché ho detto, ho modificato vari nomi nel libro, penso l'ho chiamato con il suo vero nome a lui, Amerigo, che è stato un uomo che ha combattuto nel periodo dello Desaparecidos in Argentina, quindi questa 30.000, ma anche di più, persone che sono scomparse, e lui ha ucciso tante persone. E raccontava, ecco, che faceva queste cose per amore della patria, per salvare la patria. Quindi molte volte delle persone hanno fatto delle cose brutte, l'hanno fatto per la loro ideologia a fin di bene. La cosa mi ha fatto impressione, dopo 3 ore che abbiamo parlato, lui mi ha chiesto, dove mi ha raccontato la sua storia, che ha incontrato a Fidel Castro a Cuba, che l'ha aiutato perché ha avuto un cancro, che ha aiutato poi dei bambini, cioè una vita particolarissima. E una cosa che mi ha fatto impressione, al termine della sua chiacchierata mi ha detto: ma ora ti voglio fare una domanda, tu perché sei sulla sedia a rotelle? E io gli ho raccontato che era un progetto, questo viaggio l'ho fatto con questa mia amica che ho chiamato la sedia a rotelle azzurra, come la ragazza a cui voglio tanto bene. E lui è rimasto impressionato perché mi ha detto: no, tu quindi puoi camminare se sulla sedia a rotelle? Mi ha detto: se l'avessi saputo non ti avrei raccontato nulla. Cioè, quindi anche questo tabù, no, che se la sedia a rotelle dà senso di bontà, non lo so. Sì, una persona affidabile che può ascoltarti. Sono andato in un posto dove tutti controllavano lo zaino, il portafogli, qualsiasi cosa. Io sono andato con una ragazza che si chiama Rosario, perché in Argentina Rosario è un nome da donna, mentre Andrea è da uomo. Come no, Rosario, scusate, al contrario, sì. E quindi cosa è accaduto? Che noi due siamo arrivati con la sedia a rotelle e non ci hanno controllato nulla, perché hanno detto: vabbè, sono sulla sedia a rotelle, non sono persone buone. Non diamo suggerimenti, ecco. Quindi, no, quindi deve essere una riflessione per tutte le persone che ascoltano. Una persona sulla sedia a rotelle non è una persona speciale, è una persona, può essere un delinquente, un terrorista, una persona troppo buona. Essendo una persona normale. Quindi togliamo questo tabù della diversità. Ma tu hai fatto sempre delle cose straordinarie, userei questa espressione, hai fatto viaggi, conosciuto persone, cioè ti sei messo a caccia nella vita di cose anche molto fuori da quella che è la normalità. Quando stai nella normalità invece, magari quando te ne stai a casa, modica, quali sono le cose che più ti piace cercare per segnare appunto le tue giornate, perché restino le cose? Quando sono nelle mie zone, a Ragusa, a Modica, il tempo che cerco di più è la compagnia di mio nonno, perché ha 92 anni, è un amore, una memoria differentemente dalla mia, incredibile. Quando giriamo a scopa mi dice, quando arriviamo alla fine, le tue ultime tre carte sono... 4 di spade, 5 di coppe, re di bastoni. Perdi sempre tu con noi. Perdo sempre, però siccome mio nonno è buono, forse infatti ho preso da lui, molte volte in maniera ingenua e veritiera mi fa vincere e io me ne accorgo. Però, però fa finta, ecco, che sono io che sono bravo. E fate bravo. Tutti e due finta tu di non sapere che ti fa vincere. C'è una cosa che mi incuriosisce, però tu giri il mondo, però hai questa memoria che va attraverso le emozioni. Come fai a ricordarti le lingue, l'inglese? Ma infatti se tu ascolti questa, ad esempio questa conferenza, discorso che ho fatto all'ONU, vedi che è pieno di errori grammaticali e soprattutto io ho una base di lingue grazie a quello che ho studiato prima. Anche perché dopo l'operazione ti avevano detto non avresti mai più potuto studiare nulla. Sì, cioè... invece mi sono laureato, ho preso il master, ovviamente non ho fatto gli studi che volevo perché il mio sogno era di fare il magistrato e combattere contro la mafia. Infatti oggi, qualche giorno fa, quando è morto Totorrino, tutti a parlare di Totorrino. Invece ho riproposto l'immagine di Falcone e Borsellino per dire che persone come loro non muoiono mai. È che è sempre la teoria del pensare le cose in positivo, sì, no? Quindi tu utilizzi la lingua che hai imparato quando eri ragazzino, sì, l'inglese, esempio, che hai imparato da ragazzino. Ti faccio un esempio: io fino a un anno e mezzo fa parlavo il portoghese, adesso più o meno non lo so più perché non l'ho praticato. Lo swahili sapevo tantissime cose, si parla nelle zone africane, e adesso l'ho perso, quindi ho bisogno poi di fare pratica. L'inglese è quello la scadente che avevo alle scuole medie. Quindi considerate che ci sono stati dei professori che mi hanno contattato, che loro sono andati hanno fatto dare il mio discorso all'ONU, hanno detto ai loro alunni di cercare gli errori grammaticali che avevo fatto. Quindi sono stato anche un esercizio per le scuole. Allora facciamo così, andiamo a sentire le informazioni della borsa. Poi, caro Andrea, tu non lo sai, ma noi abbiamo una rubrica in cui vogliamo defurbizzare le persone. Ok, poi mi spiegate cosa significa. Adesso durante la borsa, tendendo un orecchio alla borsa che ci preme capire come vanno i nostri affari al contempo, ti spieghiamo cosa vuol dire defurbizzarsi. Perché devi anche tu raccontarci un episodio, state con noi. Sono certa che nella tua memoria c'è qualche episodio. E se non è tuo, che avrai incontrato. Certo, sono una persona normale, ho fatto tanti errori, sono felice di averli fatti. Sennò tra poco. I funamboli. Brava Veronica, bravissima, continua così, brava. Milan, ma che cazzo è di Veronica? days of dark. Allora, siamo con Andrea Caschetto, il suo libro Come se io fossi te, edito da Chiare Lettere. Allora, se andate a vedere nel frattempo, andate su YouTube, Andrea Caschetto all'ONU, non perdetevi questi 7-8 minuti in cui veramente parla in inglese a tutta l'Assemblea delle Nazioni Unite, alla fine con una straordinaria standing ovation. Allora, finisce, intanto ci deve dire una frase in portoghese, forza Andrea. Eu falava português agora não. Io parlavo portoghese ora no. Hai visto come immediatamente gli viene un po' la cadenza trance? Il portoghese ricorda subito, no, sempre. Non vogliamo sapere cosa evocano i tuoi ricordi, Leo, per favore. Comunque, viva l'amore per tutti. Per tutti. Allora, io... è il momento in cui raccontiamo l'Italia dei furbi, dei furbetti, dei furbini, dei furbastri. Guarda come l'hanno abilitata, il momento in cui raccontiamo l'Italia. Va, va, va. È il momento di... defurbizziamoci. Ti piace questa sigla, Andrea? Bellissima, la utilizzerò come sveglia da domani mattina. È orrenda, lo sappiamo, ma ce la portiamo. Ha perso dietro la memoria, ma ha imparato a mentire. E infatti, perché dobbiamo fare questa cosa dei furbi, quindi ho utilizzato, certo, subito a pennello. C'è Mirella. Mirella ci ha scritto, ci ha contattato. Buongiorno, Mirella. Buongiorno. C'è l'eco, però deve spegnere la radio gentilmente e poi dirci che cosa ha combinato una volta. Allora, andai a Roma, io sono di Milano, andai, sì, a Roma per una mostra che la mia associazione culturale aveva preparato su invito della Camera dei Deputati e non avevo potuto prenotare per andare a visitare l'auditorium del Parco della Musica perché avevo visto un servizio in televisione ed ero molto interessata. Non sapevo neanche quanto tempo avrei potuto dedicare perché ero impegnata appunto per l'altra mostra che avevamo in ballo. Però una mattina che pioveva, che Dio la mandava, che quindi si capiva che ci sarebbe venuta poca gente a vedere la mostra, prendemmo il taxi, io e il mio compagno, e andammo all'auditorium Parco della Musica. Però fatto? Non potevo vedere niente se non avevo fatto la prenotazione. Quindi? Allora mi venne un'idea, che adesso cosa vuole? Dico, il fine giustifica i mezzi. Ah, e cioè? Dissi, sono un architetto, vengo da Milano e non ho fatto in tempo a prenotare, se cortesemente potevo vedere lo stesso l'auditorium. Allora chiamarono il direttore, che era una direttrice, la quale molto ma molto gentilmente, insieme a un'altra persona, ci accompagnarono a vedere l'auditorio. Cioè basta così dire, sono un architetto. Dirlo, basta dirlo. Basta dire, sono un architetto, vai a Roma, al Parco della Musica. Si vede che lei è una persona che ispira fiducia. Il discorso è che poi io la invitai a mia volta, la direttrice, perché è stata veramente molto disponibile, molto gentile, le disse, se vuole venire io sono a Roma per questo e questo a vedere la nostra mostra. Allora lei mi diede il suo bigliettino da visita. Sì, sì. E io lessi il nome. E rimasi, cioè? Molto ma molto imbarazzata, perché ovviamente essendo l'auditorium del Parco della Musica, la signora in questione, la direttrice, aveva un cognome molto ma molto importante. E cioè? Non glielo dico. Ah, non ce lo dice. Non glielo dico per correttezza. Vabbè, però insomma, ha fatto questa... Io volevo vederlo a tutti i costi, essendo andata... Insomma, si è spacciata per architetto, non è una cosa gravissima. Le è capitato altre volte di spacciarsi per altri ruoli oppure no? Abitualmente nella vita? Prima e unica volta. Beh, deve essere molto persuasiva Mirella, perché se ha convinto tutti così... Dai Mirella, noi le diamo la nostra patente, forza! Defurbizzata. Defurbizzata. Complimenti a tutti. Grazie anche a lei. Anche ad Andrea Caschetto. Che bella voce, signora Mirella. Ti è piaciuta la Andrea, voce anche Mirella? Tu avrai fatto il furbo con quella faccia. Tra l'altro lui è chiamato anche Mister Sorriso, l'ambasciatore del sorriso, l'ambasciatore dei bambini. Ma guarda, ieri Paolo Mariano Sede, per me il più grande interprete italiano, chiedo scusa ai suoi concorrenti, mi ha dato un nuovo nomignolo, troppo ganzo, che quindi utilizzerò in futuro. Vai. Mi ha chiamato... il restauratore dei sentimenti. Qua andiamo quasi oltre. Ma bello, l'ha detto ieri durante la presentazione del mio libro a Milano Book City. Il restauratore dei sentimenti è già il nome del prossimo romanzo. Considera adesso di fare un libro all'altezza del titolo. Vabbè, perché... ma hai fatto il furbo anche tu nella vita. L'ultima volta questa mattina all'ingresso del Sole 24 Ore. Pensavo l'ultima volta 10 anni fa. Cosa hai fatto? Non avevo fatto colazione perché mi sono alzato abbastanza last minute. Sono andato lì che c'è c'erano cornetti, cose da prendere. E ho detto: no, no, scusatemi, posso prendere un cornetto? E mi hanno detto: ma è soltanto per il bar aziendale, certo. Ci vuole la chiavetta, oppure non so chi devi essere. E io stavo per fare il furbettino, e poi ho pensato invece che la sincerità premia sempre. Ho detto: scusate, ma io veramente non ho fatto colazione, sono un ragazzo, ho bisogno di nutrirmi, ho famuccia. E ho detto: vabbè, prendito. E me l'hanno dato. Abbiamo una brioche da pagare giù adesso, appena finita la trasmissione. È evidente, no? Sulle nostre spalle. Vabbè, quindi in realtà non hai fatto il furbo. No, vabbè, allora è stato evitato. Perché così sembri un santo, dai. No, che allora una cosa più monellina. Ho evitato un tentato omicidio in Colombia, ecco, a Cartagena. C'è stato un cambio di scenario, un po', come sì. dire. Mi trovo a casa di un narcotrafficante. Ero seduto nel letto della sorella del narcotrafficante, che stavamo parlando, mi stava non raccontando la sua cosa, storia. No, no, no, niente, perché si stava confidando, perché purtroppo lei ha avuto abusi dal fratello, era stato vittima della pedofilia. Quindi ragazzi, ragazze, fate sempre le denunce, perché sono presenti i pedofili in tutto il mondo, anche in Italia. Mentre mi trovo in questo letto con questa ragazza, è venuto il fratello, che ha visto uno sconosciuto per la prima volta a casa con il volto che non era colombiano, e mi ha detto in spagnolo: hijo de tu mamma, fatto in maniera educata, io ti ammazzo. Si è girato, è andato a prendere un coltello. Io ho chiuso a chiave quella porta, che era fatta di un compensato di legno, e lui ha iniziato a dare delle coltellate nella porta. Poi, infatti, Shining, ai miei amici qua, sì, come Shining. E la mia cosa furba è stato che, mentre ho dato quelle coltellate, poi si è avvicinato con l'occhio per guardare, io mi sono accorto che avevo un crocifisso una collana a crocifisso, sì, addosso, che mi aveva regalato un prete di Malta conosciuto in Bolivia. C'è un'altra storia lunga. Comunque, mentre ho visto questa cosa, ho detto: ehi amico, non è come ti sembra, io sono un prete e sono qui per confessare a tua sorella. Il coltello è caduto per terra. Non per ci posso credere video. Cioè, ti sei spacciato per prete, ti sei salvato la vita. E poi dopo questo avresti dovuto trovare la fede e farti monaca, minimo. Gli è andato bene che ha trovato un colombiano credente, comunque, che altrimenti a proposito, oltre che ieri, credente, credulone anche. Sì, no, perché me l'ero dimenticato. Ieri alla presentazione del libro è venuto il prete di Alessandro, donna non so come si chiama. Il mio prete? Sì, mi ha detto Don che Davide, forse. Forse è lui, giovane, simpatico. Sì. E quindi ti portavo i suoi saluti. E me l'ero dimenticato. Vedi. A proposito di fede, chiese tutto, cosa vale. Vabbè, diamo la patente anche ad Andrea Caschetto, la patente. Siamo di sicuri? Defurbizzata. Che volte basta far vedere il crocifisso. Di defurbizzata. Abbiamo basta anche quella di defurbizzato. Lo vedi Don Milan, sente che gli nominano un prete, subito dalla patente di defurbizzata a tutti. Vabbè, dai, dobbiamo sentire le informazioni sul traffico. Andiamo. I funamboli. Allora, caro Leonardo, che ci vuoi raccontare? E oggi torno al mio servizio di pubblica utilità. Come già dissi una volta, Radio 24 è una radio che fa anche un servizio pubblico in qualche modo, di attendiamo informazione, la parte del canone, grazie, di notizie. E quindi io vorrei fare la mia parte di servizio pubblico con il corso di integrazione per extracomunitari. Vogliamo aiutare gli extracomunitari a integrarsi in Italia. Vediamo alcune parole, verbi ed espressioni che è utile conoscere per vivere in Italia. Il primo verbo è fermarsi. Per esempio, fermarsi in Italia. Fermarsi significa interrompere il proprio movimento, smettere di muoversi, trattenersi, non andarsene. Sinonimo di fermarsi, non andarsene, sono anche Tavecchio e Maria Elena Boschi. Quindi invece di dire mi fermo in Italia, si può anche dire mi tavecchio in Italia, e invece di dire vai via o ti fermi, si può dire vai via o ti boschi. La seconda parola utile da conoscere per gli amici extracomunitari, e che è molto importante per gli italiani, è pensione. La pensione è la somma di denaro percepita periodicamente per il resto della vita da chi cessa un rapporto di lavoro in quanto ha superato una determinata età. Con gli anni l'età pensionabile si è allungata sempre più, quindi pensione è diventato sinonimo di impossibile, irraggiungibile. Quindi, per esempio, di una ragazza che si corteggia da anni senza risultato, si può dire: quella ragazza mi ha dato la pensione, come dire, mi ha detto che per lei sono irraggiungibile. Prima responsabile dell'aumento dell'età pensionabile è l'ex ministra Fornero, personaggio che ha fatto parte del governo Monti e che da allora è diventata per gli italiani un simbolo di qualcosa di negativo. Se quindi una giornata non va bene, è piena di problemi, difficoltà, si può dire: oggi è un giorno Fornero. Come invece se si prevede di finire tardi al lavoro, si può dire: stasera finisco a Fornero, cioè non finirò mai, perché come la pensione. Inoltre, visto che all'inizio del suo operato la ministra Fornero pianse, secondo alcuni non in modo sincero, al posto di lacrime di coccodrillo si può usare lacrime di Fornero. Sta piangendo lacrime di Fornero. Ultima parola di cui vogliamo occuparci è gaffe, che significa azione o espressione inopportuna, incauta, maldestra. Campione di gaffe negli ultimi tempi è stato il candidato premier del Movimento 5 Stelle Di Maio, che per esempio ha collocato Pinochet in Venezuela o la Russia tra i paesi del Mediterraneo. Perciò, in caso di gaffe si può dire: ho fatto un Di Maio pazzesco, oppure... oppure è una situazione delicata, attento a non fare il Di Maio. Per finire, ecco alcune parole fondamentali e nomi importanti da conoscere per comprendere e ambientarsi in Italia. Per esempio, Tina Cipollari. Giuoco del calcio, tartaruga sulla pancia, tatuaggio, aperitivo, apericena. Tina Cipollari. Grande fratello VIP, Alfonso Signorini, Antonino Cannavacciuolo, che risolve tutto in 3 giorni, anche i problemi umani, mentre lo psicologo vai per anni senza risultato. Nazionale di calcio, Ventura, psicodramma, forse per risolvere il problema nazionale italiano bisognerebbe chiamare Antonino Cannavacciuolo. Polemiche, polemiche inutili, polemiche sterili, Tina Cipollari. Arrivederci al prossimo corso per extracomunitari. Direi che se questo non ci vale una porzione del canone degli italiani, io non lo so che cosa possiamo fare più di servizio pubblico. Secondo me cosa è perfetto, è chiarissimo. Beh, oggi Mita Vecchio in Italia, secondo me. Oggi Mita Vecchio in Italia è tutto. No, anche questa giornata va a Fornero. Va a Fornero. Questa non è male, cioè, proprio all'infinito. Quando telefoni a casa la moglie per dire non torno a cena, no, mi dispiace, questa giornata è una giornata va che va a Fornero. Questa giornata. Va bene, insomma, noi siamo quasi in conclusione con il nostro Andrea Caschetto, che è venuto a trovarci. Progetti, caro Andrea, viaggi, viaggi futuri, viaggi prossimi. Ecco, una cosa che mi ispira parecchio, forse spero che la realizzerò, sarà di fare un viaggio in Cina con un cane da pet therapy, perché in Cina mangiano i cani. E quindi adesso mangiano i cani. No, no, veramente. Ci sono delle zone della Cina, no, però no, mangiano i cani. Me l'hanno offerto anche nel Vietnam. In Corea le mangiano. Specifichiamo, Corea. Infatti, la Corea sicuramente è nel sud, del nord non si sa nulla. Ah, in Corea del Nord del Se Kim Jong-un mangia i cani non ci ha dato io, sapere. Sì, ho scoperto quando ero ragazzino, che proprio ero appassionato di storia internazionale, che in Corea del Nord ci sono 12 campi di concentramento nel 2017, adesso ancora, e non si sa nulla, non se ne parla. Ora, per fortuna, è venuto questo nuovo dittatore che sembra un peluche particolare, e quindi si sanno più cose, perché proprio lui è un bambino. Anche con lui si può fare pet therapy. Ma io con lui la vorrei fare. Mi piacerebbe, ecco, invitarlo a fare un viaggio negli orfanotrofio sulla sedia a rotella. Ci lasci con un insegnamento, insomma, in tutti questi viaggi, cos'è il sentimento che più ti porti nel cuore? Beh, tra l'altro, poi lui è la dimostrazione che, insomma, anche con una malattia importante poi si può ritrovare la forza. No, poi ci ha fatto un esempio, scusami, quello sui gigabyte e megabyte della memoria, faccelo, sì. Perché sennò uno non capisce bene come funziona. Io dico che tutti quanti voi avete come memoria, più che gigabyte direi un grattacielo, dove mettete tante cose belle, brutte, inutili, dispiaceri. Tanti io come inutili. Come memoria ho una capanna piccola, quindi essendoci poco spazio voglio mettere soltanto le cose belle, quindi approfittatene per riempire il vostro grattacielo di cose fighissime, cose straordinarie importanti. Ma le cose belle. Brutte riesci a dimenticartele? Ma sì, perché poi ad esempio il tentato omicidio che ho raccontato prima, ho cavolate varie, me lo ricordo, però ci rido su, perché poi il giorno dopo con quella ragazza che era con me, invece che piangere o scappare da quella città, l'ho portata in un centro con bambini disabili a farle fare attività con loro, e lei era spensierata, lì era felice e mi ha ringraziato di questo. Quindi ecco, da ogni storia brutta dobbiamo prendere la bella storia. Questa ragazza ha iniziato a studiare, ha fatto grandissime cose, quindi tutti quanti dobbiamo avere questa parola magica, è proprio la resilienza, che è la rinascita. Allora, noi ti ringraziamo moltissimo, e se volete ovviamente approfondire Come se io fossi te, e lo trovate in libreria, Andrea Caschetto, editore in attesa della restaurazione dei sentimenti, il prossimo romanzo. Sì, poi se tutti quanti volete mandarmi messaggi, effetti, foto, mi volete invitare a cena, a pranzo, a dormire da voi, mi scrivete su Facebook o su Instagram, Andrea Caschetto. Lui deve essere mio parente, lo sappiamo, anche a me, se volete invitarmi, io, guarda, pagare, fare, mandare vestiti. Sono un figlio illegittimo, forse. Quindi, papà lo stesso. Valutiamo l'ipotesi. Per chiudere la puntata devo chiedere al nostro uomo all'Avana, Lorenzo Nespoli, per favore, di portarmi con lui al concerto di Gigi D'Alessio. No, infatti noi volevamo salutare tutti i nostri funamboli, da Peter Bescapè in regia, Lorenzo Nespoli, Elisabetta Fuscone, Elisa Pancaldi in redazione, Giulia di Chiare Lettere, che mi ha accompagnato qua. Grazie. Ringraziamo anche Giulia Civiletti di Chiare Lettere, che al di là del vetro ci ha portato Andrea Caschetto. Ma cantava, perché oggi non c'è ritardo, capito? Senti che sta lì, resiste, non vuole cantare. Questa non la conosco, di Gigi D'Alessio, me ne serve un'altra. A domani.